Top 50, la classifica delle 50 posizioni di Radio Kiss Kiss Network. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're very welcome to the Top 50 questo sabato pomeriggio a ore 18. Stasera per le prossime due ore conteremo dal numero 50 al numero 26 e poi domani ci sarà alla stessa ora Franco Simeri a fare dalle 25 al numero 1. Una classifica molto movimentata questa settimana, abbiamo 19 brani in salita, 17 brani in discesa e 5 new entry e 9 che non si spostano. Il Top Select, come sapete, va in onda ogni giorno lunedì a venerdì dalle 13 e 14 con o Enzo o Elisa, è lì che avete la vostra possibilità di votare i brani che mettiamo qua on our Top 50 e sono pure i brani che suoniamo di più on Radio Kiss Kiss Network. Voi potete inviare vostre richieste, vostre votazioni alle 348-661-9461 oppure per fax alle 081-5905-231. E a proposito, ragazzi, sapete benissimo che giochiamo su il nostro Top Select questo giorno. Dovrete dirmi se è vero o falso, qual è il Top Select di oggi, se è Jerry Halliwell, Scream If You Wanna Go Faster, numero 1, oppure numero 2 Ian Pooley with Palmas. Mettetevi a scrivere il vostro numero 1 o numero 2, Jerry Halliwell o Ian Pooley, sulla 348-661-9461. Allora iniziamo subito a salutare quelli che non c'erano, non ci sono questa settimana, ma c'erano le settimane scorse, 5 a cui diamo addio. Top 50 nella classifica questa settimana, anzi abbiamo 5. Comunque noi abbiamo adesso ascoltato una di quelli, Pino Daniele with Mare Luna al numero 49, un new entry, e prima di quello abbiamo sentito al numero 50 un altro new entry, Dante Thomas with Miss California. Allora prendiamo una piccola pausa pubblicitaria e torniamo con il terzo new entry. Nostra classifica al numero 48, tutto italiano, sono gli Eiffel 65 with A Lucky In My Life. Continuate a votare per il Top Select, Jerry Halliwell o Ian Pooley, alle 348-661-9461. Pubblicità per noi. Valeria Rossi, che vuole raccontarci tre parole, vuole sentire tre parole da voi. E quella in posizione numero 46 nella classifica del Top 50. Infatti guadagna tre posizioni rispetto alla settimana scorsa. E prima di quello abbiamo sentito la bellissima India Ari with the song Video, che è un stabile, cioè non si sposta dal numero 47 da due settimane. Un pezzo che mi piace tantissimo, che passiamo spesso on I Love America, che va in onda da lunedì a venerdì dalle ore 21 alle 23. You're listening to the Top 50. Abbiamo ascoltato già 5 brani, siamo arrivati al numero 45, che è in sottofondo. Però prima di suonarlo voglio ricordarvi che il nostro Top Select oggi è o numero 1 Jerry Halliwell, Scream If You Wanna Go Faster, o numero 2 Ian Pooley with Palmas. Numero 45, che dicono Stay With Me, restate con me, invece no, sembra che non resteranno con noi, perché questo scende 12 posizioni per arrivare al numero 45. Allora ragazzi, per quelli che sono un po' più distratti, diciamo, facciamo un piccolo riepilogo dalla posizione numero 50 al numero 45. New entry. New entry. Number 49. Number 48. number 46. Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Dammi un bacio che non fa parlare. È l'amore che ti vuole prendere o lasciare. Stavolta non farlo scappare. Solo le istruzioni per muovere le mani. Non siamo mai così vicini. Number 45. Stay with me as long as you love me. You're the one I need to live. Allora possiamo continuare con la classifica. La settimana scorsa al numero 44 c'era Tricarico with Drago ed eccolo sempre al numero 44. Capitano dell'universo si trova al numero 44. Il titolo del brano è Drago e lui è Tricarico. 44 invariato dalla settimana scorsa. Allora vi ricordo il nostro numero di SMS 348-661-9461 dove potete votare per il vostro top select. Allora sarà il numero 1 Jerry Halliwell, Scream If You Wanna Go Faster, o sarà il numero 2 Ian Pulley, Balmes. Fattivi sapere e vostra votazione a Radio Kiss Kiss Network, il nostro top 50. Ok, numero 43, scende tre posti, it's Fool's Garden. Carlotta al numero 42 in our classifica di Radio Kiss Kiss Network, the top 50. Caress Toi, e lei è un new entry questa settimana, brava lei. Allora il nostro top select, stavamo a prendere i voti per il numero 1 Jerry Halliwell o il numero 2 Ian Pulley, e il numero di scrivere al 348-661-9461. Voglio salutare ad alcune persone che hanno scritto finora. Allora saluto Antonio che ci sta ascoltando da provincia di Foggia. Allora buon vacanza, mi pare che si stai riposando Antonio. Poi anche ciao, io voto per il numero uno, comunque ti mando un bacione, questo da Mariana. Grazie a Mariana, e il bacio viene raccolto con molto piacere, thank you. Poi ciao, sono Gianluca dall'autostrada per Milano, grazie del tuo messaggio e buon rientro a casa. E poi un messaggio da Miki Napoli, dice: io e Laura siamo di Treviso e non muore impossibile perché la vita è così difficile. Non lo so, la vita è difficile se siete lontani uno dall'altro, però potete magari parlare al telefono, organizzarvi una bella vacanza insieme. Anyway, non preoccupiamoci più di tanto di queste cose perché andiamo avanti con la bella musica, visto che questo è The Top 50. Siamo arrivati al numero 42 with Carlotta, Caressi Tuoi, e troviamo un altro brano al numero 41. Chiaramente questo è stabile, cioè invariato dalla posizione successiva, posizione precedente voglio dire, al numero 48 è Shaggy with Angel on the top 50, the best music. Comunque questo, se non sbaglio, è un grande numero 1 in America. Ragazzi, lo dovete votare un po' più spesso visto che è 48, 41 qua. Bon Jovi che ci raccontano di loro notte di follia, One Wild Night, che è al numero 40 nella nostra classifica top 50. E questa notte folla ovviamente li ha stancato molto perché loro scendono 8 posti dalla posizione 32 la settimana scorsa. Allora andando avanti con la classifica, ormai siamo entrati nella top 40 e guardiamo che ci sta al numero 39. E sì, in questo periodo vanno molto forti i boy band, anche quello che ci cantano. E questo infatti è il nostro new entry più alto per questa settimana. It's Velvet with Boy Band. Fish Mode scendono 9 posti al numero 38. Riepilogo per noi dal 44 al 38. Alle 19. Zucchero, il ritorno del grande, grande Zucchero, Compaia. E lui si trova al numero 36 sulla nostra classifica, il nostro top 50. Guadagna 9 punti, 9 posizioni della classifica in rispetto alla settimana scorsa. E prima di questo abbiamo aperto la seconda ora del top 50 con Alex Britti, io con la ragazza mia, che guadagna 2 posti per trovarsi al numero 37. You're listening to the top 50. My name is Fergal Kavanagh. Abbiamo Robertino on controls. E vi ricordo il nostro nostro top select che potete scegliere voi quale sarà il top select. Sarà Jerry Halliwell, Scream If You Wanna Go Faster, numero 1, o numero 2, Ian Pooley with Balmus. Fateci sapere al 348-661-9461. La classifica continua, al numero 35 c'è Alexia. Madonna che chiede What It Feels Like For A Girl al numero 34 nella nostra classifica. E se Madonna ha problemi a capire come si sente per una donna, per una ragazza, può semplicemente chiedere ad Isabella Rossellini, perché loro due saranno insieme la protagonista del prossimo film di Peter Greenaway, che sperano di presentare a Cannes l'anno prossimo, il 2002. Sarà molto interessante. Però noi stiamo parlando della classifica. Al numero 34 that's Madonna, che scende 11 posti. Però al numero 33 troviamo un brano che guadagna 5 posti. Prima di suonarla vi voglio ricordare il nostro top select 348-661-9461. Sarà Jerry Halliwell numero 1 o numero 2 Ian Pooley? Fateci sapere la vostra votazione. Al numero 33 o Tom Lipino, perché ti ha guadagnato il posto al numero 32 sulla nostra classifica top 50. Ecco Lopino Daniele with Sara. Comunque perde 7 posti, 7 posizioni, ma non si può, non deve preoccuparsi, perché al numero 49 ha anche un new entry con Mare Luna, quindi due posizioni nella nostra top 50 per il grande Pino Daniele. Allora, we're counting down the top 50 songs questa sera, e domani ci sarà Franco a contare dal 25 al numero 1, ma noi facciamo fino al 26 stasera. Saluto Giancarlo Raiola che è venuto in posizione. Ecco, chi è che sta facendo questo rumore? It's Vasco Rossi che è al numero 31. Ti prendo e ti porto via. Certo che non potete dire di no. Vi prendo e ti porto via, un invito che vi fa Vasco Rossi, che li fa essere al numero 31 nella nostra classifica. Guadagna 4 posizioni in confronto alle settimane scorse, e questo viene dal suo album Stupido Hotel. Allora riepilogo da noi, per noi dal 37 al 31 adesso. Posti per il numero 29, posizione per i NSYNC with Pop on our top 50. E prima di quello avete sentito Lollipop, che scendono 9 posizioni e si trovano al numero 30 with Down Down Down. Sì, stanno proprio going down down down la classifica questa settimana. Comunque non vi preoccupate, abbiamo tanto tanto bella musica da ascoltare on questo top 50. Però prima di andare avanti con il top 50, guardiamo un po' il top select e chi l'ha vinto. Allora, qua c'è un messaggio per la top select, voto Raff con Infinito. Un bacio a mia moglie Susie per il nostro anniversario di matrimonio. Bye Pietro. Oh, ma Raff non è una delle nostre top select. Vi ricordo che era Jerry Halliwell e Ian Pooley. Comunque, auguri del vostro anniversario. Comunque, poi mi ha scritto Salvatore, che sembra che sia un po' confuso. Ha detto: ciao Mariana, mi chiamo Salvatore e sarei molto compiaciuto di essere il tuo accompagnatore per passare una serata lungo e divertente. E poi ha scritto un'altra volta: mandami una risposta, spero positivo. Ti rinvio il bacio, anche se preferirei dartilo non con l'SMS ma di persone. Grazie Salvatore, lo apprezzo, però my name isn't Mariana. Ok, mi ha scritto anche questo che non ha firmato, ha detto: adesso ho acceso la radio, volevo sapere se c'era Lady Marmalade. Allora, oggi non ci sta, devi sincronizzarti con Franco Simeri domani per sapere se ci sarà domani o meno. Allora, vediamo un po'. Alfredo ha detto che sarà Ian Pooley. No, hai sbagliato. Chi ha vinto? Ha vinto Mariana e Manuela, che hanno detto che il nostro top select è Jerry Halliwell, it's Scream If You Wanna Go Faster. Gentlemen, ma non conviene sempre portarsi da cavaliere, perché Lou Bega si trova al numero 28, che è in posizione 4 in meno della settimana precedente. Sta scendendo la classifica. Forse è molto meglio essere un lover boy, come dice Mariah Carey, perché con questo ha guadagnato 7 posizioni in confronto alla settimana scorsa. E questo viene dal suo nuovo album Glitter, che dovrebbe uscire in contemporaneo col film Glitter pure, quindi possiamo sia ascoltare che vedere Mariah, che si trova al numero 27. Campione che usa Mariah Carey su questo Loverboy è dei Cameo, un pezzo si intitola Candy, ma questo è un grande grande hit per Mariah Carey. E se mi promettete, a questo punto posso ricordarvi che domani pomeriggio dalle 16 alle 18 abbiamo Remake, dove ascoltiamo vecchi brani e poi cover. E domani ci saranno i super ospiti in studio, ci saranno Paolo e Chiara, quindi non perdete questo. Allora, torniamo al top 50 di questa sera. Mariah Carey era il numero numero 27 e al 26 c'è Lisa Stansfield. Call it love, cioè chiamiamolo come vogliamo, love o no, comunque il fatto è che Lisa Stansfield rimane al numero 26 invariato della settimana scorsa e non guadagna né perde i posti, quindi è positivo che non perde i posti. Comunque al numero 26 Lisa Stansfield, Let's Just Call It Love, che ci porta alla conclusione di questa edizione fino a domani, però prima di andare facciamo un piccolo riepilogo dal 30 al 26. Ecco, allora è arrivato l'ora di salutarci fino a domani quando torna il Top Select, il Top 50 anzi, e vi ricordo che il vostro Top Select lo potete fare attraverso l'SMS 348-661-9461 oppure attraverso il nostro sito internet www.kisskissnetwork.it e oppure attraverso fax 081-5905-231 e vi ricordo inoltre di ascoltare ad Enzo o Elisa ogni giorno dalle 13 alle 14 per votare anche il vostro Top Select. Allora ragazzi, è stato un piacere stare con voi questo pomeriggio. C'è Giancarlo Raiola che ha curato il party tecnico e Robertino prima di quello. Io vi saluto fino a domani alle ore 16 perché facciamo il grande grande remake con le ospiti Paola e Chiara. E che vi posso dire, divertiti questo sabato sera. Ciao a tutti!